Siete sicura che un po' di brodo sia sufficiente? Chiese esitando. E sarà sufficiente a nutrire mio figlio quando lo raggiungerà? Per tutta risposta, Frau Dosch avanzò con passi pesanti e chiuse la porta. Si sentiva morire dalla stanchezza e non intendeva a quell'ora della notte mettersi a difendere i suoi metodi con un marito. Chiuse a chiave la porta e iniziò a togliersi i vestiti. Quasi non si reggeva più in piedi. Si era trattato di uno di quei parti che, pur essendo normalissimi, si protraevano all'infinito ammazzando di fatica un'onesta ostetrica non più giovane come un tempo. Prima di buttarsi sul letto, approntato per l'occasione, diede uno sguardo finale al piccino delizioso addormentato nella culla e poi all'altra sagoma sul letto, immobile come prima, apparentemente inanimata. Beh, se Frau Pastor preferiva comportarsi come un pezzo di legno anziché come una madre orgogliosa, che facesse pure, pensò Frau Dosch scrollando le spalle. Poi si infilò un corpetto di cotonina sopra la sottoveste, si liberò delle ciabatte con un calcio e ancora con le calze ai piedi e le forcine nei capelli, piombò all'istante in un sonno profondo. La vita nella canonica, nelle settimane che seguirono, lasciò Herr Dremmel alquanto perplesso. Si era aspettato che la nascita del figlio seguisse la gioia semplice di una compiuta felicità familiare. Si trattava di un'aspettativa ragionevole. Era ciò che accadeva nelle altre case. Era stato paziente per 9 interminabili mesi, confortato dal pensiero che tanta sopportazione sarebbe alla fine stata ampiamente ricompensata dal vedersi restituire la sua giovane moglie di nuovo snella e in salute, che si muoveva lesta per casa, cantando e tenendo fra le braccia un figlio in perfette condizioni. Ora il figlio c'era e il sospetto sembrava soddisfacente. Ma dov'era la giovane moglie in buona salute? Per quanto riguardava il correre per la casa, poi, quando arrivò al quinto giorno, il giorno in cui le altre donne della parrocchia si alzavano dal letto ritrovando la consueta vivacità, Ingeborg non mostrò la benché minima consapevolezza di quanto ci si aspettava da lei. Quando le suggerì di alzarsi, lei lo fissò con aria assente, il medesimo sguardo vacuo e disinteressato di quando guardava per ore e ore fuori dalla finestra, immobile e con la bocca un po' dischiusa, fino a quando non arrivava Else per aiutarla a cambiare posizione. Frau Dosch partì il mattino seguente alla nascita, secondo l'usanza delle ostetriche, ma ritornò ogni mattina per i 3 giorni successivi per lavare madre e figlio. In seguito fu Else a svolgere quel compito. E per quanto Herr Dremmel poté constatare, ella eseguiva tale incombenza con zelo e vigore. In casa si faceva tutto ciò che era umanamente possibile. E allora perché Ingeborg continuava a restarsene a letto, in quella condizione di apatia e disinteresse, senza nemmeno prendersi il disturbo di chiudere la bocca? Si sentiva perplesso e deluso. I giorni passavano e nulla cambiava. Non poteva evitare di osservare con disagio una certa mancanza di spina dorsale, proprio nella madre dei suoi figli. Il più trascurabile sforzo la prostrava in un bagno di sudore e per quanto ne sapeva lui, Ingeborg non aveva sino a quel momento circondato volontariamente con le braccia suo figlio una sola volta. Era Else che quando portava il bambino doveva tenerle attorno. Non aveva mai nemmeno aperto la bocca per dire qualcosa che lo riguardasse, anzi, avrebbe benissimo potuto essere una femmina per l'orgoglio che la madre dimostrava. E la funzione più sacra di ogni altra. Quella dell'allattamento del proprio figlio, piuttosto che rivelarsi una gioia ricorrente, pareva invece una difficoltà insormontabile. Ogni qualvolta il bambino chiedeva di essere nutrito e veniva a tal scopo portato dalla madre, lei, invece che dargli con entusiasmo il benvenuto, arrossiva, si irrigidiva e serrava gli occhi. Per tutta la durata del pasto, poi, lo spettacolo che si offriva alla vista era quello di Ingeborg, che sudando copiosamente, stava sdraiata sul letto con il capo riverso all'indietro e afferrava convulsamente le lenzuola con entrambe le mani, come se stesse subendo un supplizio. Ingeborg, le chiese la prima volta che ebbe modo di notare quel comportamento così peculiare, che cosa ti prende? Fa male, gli rispose in un sussurro, articolando i suoni in modo così indistinto che gli dovette chinarsi per udire bene. Lui aveva controbattuto che sicuramente si trattava di immaginazione, dato che allattare il proprio figlio non solo costituiva il più grande privilegio di una madre, ma era anche una certezza assodata che quell'azione procurava la più profonda e sacrosanta soddisfazione. Le aveva poi ricordato che in tutti i dipinti doveva apparire una madre, ella, invariabilmente, era immortalata nel lato di nutrire il proprio figlio, oppure subito dopo. Ecco perché sui cui visi si leggeva la serenità che scaturiva dal compimento di una funzione così naturale. Ingeborg non gli aveva risposto e il suo volto, sempre arrossato e percorso da goccioline di sudore, era rimasto girato dalla parte opposta. Il fatto poi che fosse Else a tenere il bambino in posizione denotava in Ingeborg una deplorevole mancanza di determinazione. Inoltre sua madre sembrava essere preda di bizzarre fantasie. Immaginava per esempio che pezzi di pane imburrato che Else le disponeva su un piatto all'ora del tè fossero attaccati al fondo. Un pomeriggio l'aveva scoperta mentre si sforzava di sollevare dal piatto una di quelle fette. Non essendo Else nella stanza, lui le aveva chiesto che cosa stesse facendo. Come al solito lei gli aveva risposto in bisbigli. Il credere di aver perso la voce era un altro dei suoi schiribizi e quando si era chinato per udir meglio aveva scoperto che sua moglie stava sussurrando la parola attaccato. Lui allora aveva sollevato il pane per provarle che si sbagliava, poi aveva preso in mano il piatto e agitandolo un poco le mostrò come il pane vi saltellasse sopra. Lei l'aveva guardato, poi aveva ribadito la sua incapacità a far di meglio. Indi, lasciando cadere le mani sul lenzuolo, aveva sollevato lo sguardo in alto verso di lui, mormorando qualcos'altro. Pesante, era stata la parola, bisbigliata non senza una sorta di fugace sorriso. Egli fu lieto di notare il che stava a indicare la consapevolezza di un comportamento puerile. Poi Else, entrando nella stanza, aveva preso il pane e l'aveva imboccata, come se l'infante di casa fosse lei e non suo figlio. Herr Dremmel era perplesso e preoccupato al tempo stesso. Lo fu ancora di più quando, una settimana dopo la nascita, Else venne a comunicargli che Frau Pastor stava agitando pericolosamente il letto. Temeva pertanto che se non avesse smesso il letto già di struttura debole come Herr Pastor ben sapeva, poiché due gambe su quattro erano state rabberciate, avrebbe potuto rompersi. Si era già tanto raccomandata Frau Pastor, ma ella non le aveva prestato attenzione per continuare imperterrita il suo dondolio. Quel bel letto, disse Else, quel letto eccellente, il migliore che abbiamo in tutta la casa. Herr Pastor desidera venire a vedere. Herr Pastor la seguì e trovò Ingeborg che tremava in modo incontrollabile, al punto che il letto, come Else aveva descritto, produceva minacciosi scricchiolii. Di fronte alle sue domande, dato che Ingeborg era tanto intenta a tremare per riuscire a spiegare, Else rispose che non era successo nulla di strano, se non che Frau Pastor aveva detto di avere sete. Lei, quindi, era andata a riempire un bicchiere di acqua fredda alla pompa dell'acqua e Frau Pastor, dopo aver chiesto aiuto per star seduta dritta e poter bere, se l'era scolato d'un fiato, ritornando poi subito in posizione supina e iniziando a prodursi in quell'irrefrenabile tremito. Ingeborg, che cosa ti succede? Chiese Herr Dremmel, esibendo una certa severità, poiché aveva sentito dire che talvolta la severità agiva come sedativo nei confronti di coloro i quali, per esempio, tremavano. Ingeborg, invece di rispondere come un essere ragionevole, proseguì a tremare, apparentemente inconsapevole della presenza del marito. Quando egli, toccandola, scoprì che la sua temperatura era parecchio alta, mandò Johanna a chiamare Frau Dosch, la quale, vedendola a sua volta, poté soltanto suggerire di inviare Johanna a Moek per prelevare il dottore. Fu così che Ingeborg, emergendo all'improvviso da una sottile ma persistente stato confusionale in cui le sembrava di essere piombata fin dagli albori dell'universo, scoprì che era già notte, dato che le lampade erano accese, e che della gente, molta gente, stava attorno al suo letto. Tra costoro c'era un uomo sconosciuto dalla barba corta e nera. Anzi, no, lo conosceva invece. Si trattava del dottore. Se ne sovvenne in un lampo. Allora doveva proprio trovarsi in condizioni disperate. Quella donna corpulenta, quella che soleva farle visita in giardino tanto tempo fa. E Else, quella che stava ai piedi del letto e piangeva, era Else. Quando una era in condizioni disperate, le Else della situazione piangevano sempre. Si ritrovò ad accarezzare la barba del medico e a pregarlo di non lasciarla morire. Dal modo in cui il medico si ritrasse, però, era chiaro che considerava quel gesto sconveniente. Ella pensò fosse sciocco non dar licenza di accarezzare una barba a un moribondo se questi desiderava farlo. Sentì se stessa implorare. Non lasciate che muoia, per favore, non lasciate che muoia, vi prego. Anche il medico, però, risultò incapace di tenerla ancorata alla realtà, poiché quasi subito si sentì nuovamente sprofondare in una confusione sottile, impetuosa, precipitosa, per poi essere risucchiata verso l'alto, su, in cima, su di un picco appuntito, nel punto in cui la chiave di violino strideva, dove tutti i violini si intestardivano all'unisono e all'infinito, su quell'unica nota sottile, tremula e straziante. Non riesco a credere, proferì il dottore, un ebreo di Königsberg, che di recente si era sposato e stabilito a Moek, osservando Frau Dosch, che sia potuta accadere una cosa del genere. Spiegò quindi a Herr Dremmel che se la pelle di sua moglie non fosse stata così delicata e che se tale delicatezza fosse stata rilevata in tempo tutto sarebbe andato per il meglio. Disse che nonostante gli apparisse impossibile dover attribuire una pelle simile a un essere umano altrimenti normalissimo, doveva necessariamente prenderne atto. Il neonato, affamato e duro di gengive, doveva aver morso Frau Pastor già dal primo pasto. No, disse Frau Dosch, perché io ero presente. Il medico scrollò le spalle. Affermò che era impossibile non aver visto subito il morso. In ogni caso, aggiunse guardando Frau Dosch, che sulla difensiva teneva le braccia serrate in una linea torva, l'impossibile era accaduto. Della sporcizia era entrata nella lacerazione, si era formato un ascesso, forse sarebbe stata necessaria un'operazione. A ogni buon conto, il bambino, da quel momento in poi, avrebbe dovuto cercare nutrimento nel cibo in scatola. Cosa? Esclamò Herr Dremmel. In scatola, ripeté il medico. In scatola per mio figlio, quando ci sono tante mucche sulla terra, mucche che se non altro sono di gran lunga più somiglianti a una donna che non a delle scatole. Latte in scatola, ripeté il dottore con fermezza. Herr Pastor, le mucche sono soggette a ubbi e stati d'animo proprio come le donne. Se vengono nutrite secondo criteri poco assennati, questo provoca immediatamente un mutamento d'umore. Essendo prive del dono della favella e pertanto impossibilitata a sfogare i loro malumori parlando, quando vengono beffate da un lato si rifanno dall'altro, esprimendo la loro frustrazione in una cattiva produzione di latte. Herr Dremmel rimase ammutolito. Le complicazioni e le difficoltà della vita familiare si componevano sotto ai suoi occhi in un quadro che egli non poteva non osservare con costernazione. Sul letto, Ingeborg seguitava a volgere il capo da una parte all'altra, a strofinare le mani sul lenzuolo. Mentre parlava, il medico la osservava. Frau Dosch presenziava la scena con le labbra serrate in un broncio. Else piangeva. Il bambino piagnucolava. Il medico aggiunse che avrebbe mandato con Johann nel viaggio di ritorno alcune scatole di latte e di formula. Qualora egli avesse tardato e il bambino fosse stato inquieto, spiegò il dottore, un poco di acqua avrebbe. Acqua! Mio figlio è nutrito con dell'acqua! Esclamò Herr Dremmel. Santo cielo! Che razza di dieta sarebbe questa per un buon tedesco? Formule e acqua al posto di sangue e ferro? Il dottore si strinse nelle spalle e, dopo aver deposto con gentilezza la mano di Ingeborg sul letto, che aveva per un attimo trattenuta tra le sue tentando di acquietarla, si preparò ad accomiatarsi e gli informò che avrebbe inviato una donna. Esordì Herr Dremmel decisamente sollevato. Conoscete una nutrice che sia sana e affidabile? Intendo dire un'infermiera per Frau Pastor. È impossibile lasciarla senza cure specifiche. Necessita di medicazioni, di puntualità e di attenzione, disse guardando Frau Dosch. Pulizia, efficienza, proseguì, sempre accompagnando ogni parola con un'occhiata in direzione dell'ostetrica. Tornerò domani. Niente di preoccupante, niente di preoccupante, affermò infine salendo sulla carrozza mentre Herr Dremmel sostava sulla soglia con aria pietosa. Ma, come vi ho detto, la signora ha un'epidermide estremamente delicata. La malattia ebbe un corso del tutto ordinario. Dal momento in cui un'infermiera proveniente dall'ospedale di Königsberg vi approdò, la casa male organizzata degli ultimi tempi riacquistò all'istante i consueti ritmi. Else tornò alla cucina, il neonato fu pacificato dalla dieta scientifica e il letto di Ingeborg divenne immacolato. Inoltre nessuno, passando, urtava più la gamba del letto, faceva tremare il pavimento e la puerpera con i suoi passi maldestri. Di certo Ingeborg non era più curata con l'esuberanza casalinga di chi strigliava il pavimento della cucina e rendeva felice il maiale di casa. Adesso bende, pomate, disinfettanti stavano riposti in file ordinate, panni bianchi ricoprivano i tavoli. Le finestre stavano spalancate giorno e notte e la luce delle lampade aveva smesso di colpire gli occhi della puerpera. Tutto procedeva in modo regolare, ivi incluso il comportamento dell'ascesso che seguì il suo lento decorso, incurante della fretta e indisturbato da qualsiasi tentativo di accelerare la guarigione a opera del medico. Si sviluppò, giunse a maturazione e declinò in totale obbedienza alle leggi di causa ed effetto, un fenomeno non privo di un certo fascino per chi fosse in grado di apprezzarlo. Tutto era tornato normale, eccetto la mente di Ingeborg. Lì, nei recessi più oscuri, si annidava la paura. Lei ora guardava la vita con sospetto. In quella notte, in quella giornata terribili precedente alla nascita, nonché nella notte stessa dell'evento, aveva perso ogni innocenza. Adesso era colpevole. La morte stava in agguato a ogni angolo. Morte e crudeltà, morte e orrore indicibile. Morte che fingeva di essere vita. Morte appostata, in attesa di infliggere nuovi patimenti, di afferrarla ancora tra le sue grinfie, di averla completamente in suo potere la prossima volta per completare la sua opera distruttiva. Che cos'era mai tutto quel parlar di vita? Tanto non vi era altro che morte. Gli altri però lo ignoravano. Lei invece aveva visto, era stata a un passo dalla sua morsa. Era rimasta sola, senza alcun conforto, nella valle dell'oscurità, una vallata buia per l'ombra che la morte vi proiettava. Mentre vi si dirigeva, aveva tenuto gli occhi ben aperti. Ogni passo di quel percorso le era impresso nella memoria come un marchio a fuoco. Non le era stato risparmiato nulla. Ora sapeva. Fuori, in giardino, le foglie frusciavano e conferivano gaiezza al mondo, così come il sole e i fiori dall'aspetto gentile e delicato che aveva amato con fiduciosa passione. In realtà si trattava solo di morte. Morte camuffata da vita. Non si sarebbe più lasciata ingannare. Oramai conosceva bene il suono dei suoi passi. Spesso, quando era in preda al delirio della febbre, la sentiva arrivare attraverso il cortile, la udiva salire i gradini e percorrere il corridoio, fermandosi appena fuori dalla porta, ogni volta desistendo, anche se solo per poco tempo. E senza dubbio sarebbe tornata, portando con sé tutto il suo orrore, l'orrore dell'attesa di quello strazio, l'orrore della consapevolezza che l'amore sfociava in quell'obbrobrio e una nuova vita non rappresentava altro che ulteriore morte. Ingeborg giaceva, contemplando con angoscia quella realtà, una realtà che in quella casa lei sola conosceva. Sentiva i palpiti del suo cuore, o se solo avesse potuto evitarlo, sì, ogni singolo, fievole, irregolare battito, ogni tremolio, ogni arresto, e poi quel sonno secco, infine la debolezza che sopraggiungeva, l'impotenza assoluta, e non aver nulla al mondo a cui aggrapparsi, nemmeno il letto. Sembrava più offrirle sostegno, tanto si sentiva sprofondare in un vortice, giù, sempre più in basso, nelle sue profondità dove una forza la trascinava via. Talvolta l'infermiera arrivava per starle vicino e per liberare la fronte concentrata, corrucciata, dai capelli con una carezza della sua mano grande, confortante. A che cosa state pensando? Le chiedeva, chinandosi sopra di lei e sorridendole. Ingeborg non le rispondeva mai. A Herr Dremmel l'infermiera consigliava pazienza. Egli replicava che durante quei 10 mesi ne aveva avuta fin troppa. Dovrete averne ancora, ribatté l'infermiera. Vedrete che tutto si aggiusterà. E per gradi, così avvenne. Ingeborg lentamente riprese a risalire la china della vita. Si trattò di un percorso lungo e incerto, ma arrivò un momento in cui spiragli di luce incominciarono a intervallarsi ai pensieri più truci. La prima volta che consumò della carne per cena, non ebbe cupe visioni per parecchie ore e il giorno successivo, quando mangiò della carne per la seconda volta, iniziò a tenere la bocca chiusa. Il giorno dopo, un sentimento di vergogna per i suoi pensieri torvi le si insinuò nella mente e lì rimase. L'indomani ancora, quando non solo mangiò nuovamente carne, ma incominciò una cura a base di un nuovo ricostituente, chiese di Robert Lee e lo prese fra le braccia, tutto da sola. Allora l'infermiera scivolò fuori dalla stanza e chiamò Herr Dremmel. Egli, arrivando di gran corsa e trovandola seduta appoggiata sui cuscini che teneva il figlio fra le braccia e gli sorrideva, come da sempre si era figurato nei suoi sogni di padre, si gettò ancora una volta in ginocchio accanto al letto e prese l'intero gruppo, madre, figlio e cuscini fra le braccia e apertamente, senza alcuna vergogna, scoppiò in un pianto di gioia. Pecorella, pecorella, ripeteva. Ingeborg, avendo raggiunto quello stadio della convalescenza in cui non si perde mai l'occasione di versare qualche lacrima, prese a piangere a sua volta. E poiché anche Robert Letta aveva iniziato a strillare, fu l'infermiera con il suo riso a porre fine a quel lacrimevole consesso. Successivamente, giorno dopo giorno, le cose continuarono a progredire. Ingeborg andava ristabilendosi a vista d'occhio ed era quasi possibile di ora in ora rilevare i costanti miglioramenti verso il ritorno alla donna di un tempo. Si aggrappava ancora molto alla presenza dell'infermiera, che le rimase accanto a lungo dopo il passaggio alla fase successiva e che non la lasciò fino a quando non fu di nuovo in grado di gironzolare per il giardino in uno stato d'animo gaio e di fare tutte quelle cose con Robert Lee che aveva programmato mesi prima. Il marito la trovava più bella che mai. E lei era estasiata, riconoscente di essere tornata di nuovo nel mondo e la felicità le illuminava il volto. Che meraviglia poter circolare di nuovo nello spazioso universo del libero movimento, andare sul barchino, prendersi qualche ora di libertà da trascorrere nel folto della foresta, essere in grado di organizzare finalmente, rientrata in pieno possesso, il proprio tempo e il proprio corpo. La deliziosa sensazione di tenersi in salute e la gioia di essere riapprodata alla normalità la rendevano euforica. Quell'anno, settembre, offrì giorni radiosi, colmi della tranquillità e della dolcezza propria dell'estate pienamente matura. Né Herr Dremmel né Ingeborg si erano mai sentiti tanto contenti. Lui l'amava con lo stesso ardore con cui l'aveva amata prima del matrimonio. Si scopriva notare aspetti di lei come la grana sottile della pelle o la bellezza della linea della nuca e il modo in cui i suoi capelli si arricciavano proprio in quel punto. Sua moglie era il miglior completamento e ornamento della dimora di un uomo, si disse a Herr Dremmel. Non solo non lo disturbava mai, assorbita nella crescita del figlio e nella cura della casa in modo totalmente indipendente, ma non lo obbligava nemmeno a processi di pensiero che l'avrebbero distratto dal lavoro quando si trovava chiuso nel suo laboratorio. Inoltre, sua moglie era totalmente dedita a interessi che ne esaltavano la femminilità. Era allegra, affettuosa e preoccupata per il benessere del suo bambino. Era meraviglioso tenerla ancora sulle ginocchia e delizioso ascoltarla quando, rivolgendosi al figlio, pronunciava quelle dolci e talvolta esilaranti insensatezze di cui sembrava aver piena la testa. Era appagante notare la sua improvvisa solennità ogni qualvolta si trattava di svolgere un'incombenza per il personale benessere di Robert Lee. Ti pare possibile tanta felicità? Gli chiese Ingeborg una sera dopo cena, mentre percorrevano il sentiero che attraversava i campi di segale, sentendo che in lei si gonfiava una nuova ondata di audacia e sicurezza. Hai mai provato niente di simile? È tutto merito tuo, mio piccolo sole splendente, rispose Herr Dremmel, fermandosi per baciarla con trasporto, proprio come se fosse stato ancora sotto il pero nel giardino del vescovo. È tutto merito tuo. E presto mi occuperò di tante cose, Robert, tantissime cose. Prima di tutto intendo diventare una vera e propria moglie di pastore, girare per ogni casa del villaggio. Oltre a quello, si arrestò per allargare le braccia di un gesto familiare. Sì, nelle prottina? Oh, non so, ma è così bello essere vivi, ti pare? Sento che se solo allungassi le mani verso le stelle, potrei afferrarne tante quante ne vorrei. E quando l'infermiera se ne fu andata, quando la famiglia ebbe riacquistato i suoi ritmi consueti, quando il salotto cessò di essere sfigurato dal letto provvisorio di Herr Dremmel, quando la vita fu di nuovo sgombra dalle difficoltà E quando fu chiaro che bisognava proseguire a lodare il buon Dio per averla creata così generosa e benevola, Ingeborg si ritrovò in attesa del suo secondo figlio.